Il punto di Stefano Folli. Le difficoltà nella nomina del nuovo ministro degli esteri saranno risolte presto, probabilmente già oggi, però insegnano qualcosa. In primo luogo che, nonostante tutto, il ministero degli esteri non è come tutti gli altri, implica materie e relazioni delicate e non può essere trattato alla stregua di un dicastero minore, in base al principio che una donna è meglio perché così si rispetta la parità di genere nella composizione ministeriale. Una donna può essere meglio, ma in base a considerazioni più profonde. In secondo luogo si dimostra che al vertice della piramide istituzionale il Quirinale continua ad avere una funzione di controllo e di equilibrio rispetto agli atti e alle decisioni del governo. È una caratteristica da sempre del nostro assetto e forse è pericoloso alterare questa condizione. Sarà opportuno pensarci quando si tratterà di scegliere in un futuro non molto lontano il successore di Napolitano, determinato a lasciare in tempi abbastanza brevi. Il nostro sistema costituzionale richiede tuttora un Presidente della Repubblica che non si limiti a tagliare i nastri.